una de botta bigi da bampena. Si do lavar la veste americano, quando si fa la moda sata dura, fuma durante il garden della view. Papa americano.